Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. Benvenuti anche a questa ripresa delle trasmissioni di Fumetti a Sinistra, un mondo dentro il balloon, che, come sa chi ci ha ascoltato nelle puntate precedenti, si concentra sul Pioniere, questo giornalino in alveo Partito Comunista Italiano, edito nel dopoguerra con la direzione di Gianni Rodari, di Dina Rinaldi, ma che tramite anche questo giornalino ha letto altre esperienze editoriali per ragazzi come Il Vittorioso, Il Corrierino, oppure si è concentrato sulla storia della narrazione della resistenza partigiana, un occhio anche alla storia della partecipazione femminile alla ricostruzione democratica e civile post bellica, uno sguardo sulla evoluzione del linguaggio della narrazione nazional popolare. Abbiamo parlato di fumetto, ma anche di fotoromanzo, di grafiche, di cinema, di canzoni. Ma questi sono i titoli che abbiamo indagato, e tra gli altri, ed è qui ripartiamo con Rodari, abbiamo parlato molto di educazione e di scuola, di lettura, e questa puntata si concentrerà su questo versante per riaprire la nostra collana di puntate proprio con Gianni Rodari, la scuola e la sua partecipazione all'interno di una classe scolastica. Ascoltiamo. Problema come questo. Proprio in un momento in cui si cerca di anticipare l'incontro tra il bambino e la lettura, l'alfabeto, in che modo, per quali canali si attua questo incontro tra il libro e il ragazzo? Ma una cosa fondamentale, dicendo che questo incontro avviene il più spesso in modo casuale, io direi che avviene però anche in modi diversi, a seconda delle classi di appartenenza, probabilmente anche a seconda delle regioni. Credo che noi dobbiamo tener conto che una buona parte del nostro paese ha conosciuto la scuola solo in questi decenni. L'alfabetizzazione popolare non è ancora del tutto completa. Intere generazioni di bambini arrivano per la prima volta adesso al libro. E ci arrivano nel modo casuale, disordinato, come poi avvengono quasi tutte le cose della vita. Il bambino comincia a vedere un fumetto nell'edicola, conosce i fumetti dei suoi amici, questa è la sua scelta iniziale, mi sembra che sia anche giusto, perché è una lettura stimolante per l'immaginazione, è un'attività della mente molto complessa e stimolante. Il luogo fondamentale dell'incontro tra il bambino e il libro per la maggioranza della popolazione, mi sembra che sia ancora la scuola. Dovrebbe essere la famiglia, cioè il bambino a un anno, due anni dovrebbe già cominciare a giocare coi libri come gioca con i suoi giocattoli, coi burattini, con le bambole. Questo in realtà non avviene, perché non credo che ci sia in tutte le famiglie italiane una biblioteca o un settore di biblioteca per i bambini. Dovrebbe avvenire nella scuola. Però ecco, questo già crea dei problemi, perché dovrebbe avvenire a 3-4 anni in una scuola dell'infanzia, che però esiste poco, non esiste, non è generalizzata. Poi avviene nella scuola elementare, e qui ci si urta subito con la funzione di tipo esercizio che assume il libro nella scuola elementare. L'incontro col libro è l'incontro con un lavoro. Generalmente, invece di facilitare questo incontro, la nostra pratica abituale, la nostra tradizione scolastica lo rende più complicato, perché sul libro subito bisogna fare esercizi, dividere in sillabe, fare l'analisi grammaticale, poi fare l'analisi logica. Alla fine finisce che i bambini possono anche odiare il libro. Tutti gli elementi che allontanano. Allontanano, rendono difficoltoso, non festoso, non ricco di stimoli per l'immaginazione come potrebbe essere. Compito. Per domani scriverete 10 nomi comuni, 10 nomi propri, 10 nomi collettivi, 10 nomi astratti, 10 nomi concreti, 10 nomi primitivi, 10 nomi derivati, 10 diminutivi, 10 accrescitivi, 10 dispregiativi, 10 nomi composti, 10 nomi maschili, 10 nomi femminili, 10 indipendenti, 10 promiscui, 10 nomi difettivi, 10 nomi indeclinabili, 10 sovrabbondanti, 10 arcaismi, 10 neologismi, 10 barbarismi, 10 catechismi. Abbiamo parole per vendere, parole per comprare, parole per fare parole. Parole per pensare. Abbiamo parole per fingere, parole per ferire, parole per fare solletico. Andiamoci. Parole per amare, abbiamo parole per piangere, parole per tacere, parole per fare rumore. Andiamo a cercare insieme le parole per parlare. Andiamo a cercare insieme. Parole per parlare. Giovannino per di giorno ha perso il tram di mezzogiorno, ha perso la voce, l'appetito, ha perso la voglia di alzare un dito, ha perso il turno, ha perso la quota. Ha perso la testa, ma era vuota. Ha perso le staffe, ha perso l'ombrello, ha perso la chiave del cancello. Ha perso la foglia, ha perso la via. Tutto è perduto, fuorché l'allegria. Mi piace fumare con lei della flora, in altre città d'Europa, tenerla da dietro e sbanfare la Roma. Mentre cucina qualcosa di appetitoso, bere vino rosso, guardare dei documentari sull'universo e su come funziona. È la via di Carlito, ma con un lieto fine, come andare in paradiso ma senza morire. È una rosa senza... Un punto, piccoletto, superbioso, iracondo. Dopo di me, gridava, verrà la fine del mondo. Le parole protestarono. Ma che Grilli apre il capo. Si crede un punto e basta. E non è che un punto è a capo. Tutto solo a mezza pagina lo piantarono in asso e il mondo continuò una riga più in basso. Era alto così, era grosso così, lo chiamavan Bobolo. Provò di ballar, cominciò a traballar, fece un capitombolo. Ronzolò di qua, rimbalzò di là, come fa una palla. Per destino fatal, cadde in un canal, ma rimase a galla. I suoi piccoli piedi, nel suo grande gilet, lo chiamavano Bobolo. Ho conosciuto un tale di Macerata, che insegnava ai coccodrilli a mangiare la marmellata. Le Marche, però, sono posti tranquilli. Marmellata ce n'è tanta, ma niente coccodrilli. Quel tale girava per il monte e per la pianura in cerca di coccodrilli per mostrare la sua bravura. Andò a Milano, a Como, a Lucca, ad Acqua Pendente, tutti posti bellissimi, ma coccodrilli, niente. È ancora lì che gira. Un impiego non l'ha trovato. Sa un bellissimo mestiere, ma è sempre disoccupato. Ho conosciuto un tale di Vignola, che aveva tre cappelli e una testa sola. E girava, girava per il monte e per il piano, con un cappello in testa, gli altri due, uno per mano. Un giorno che pioveva, incontrò un poveretto che in testa non portava né cappello né berretto. «Ecco», disse quel tale, «il mondo è tutto sbagliato». A me tre cappelli, a lui il capo bagnato. E andando per la sua strada mentre fischiava il vento, quel signore con tre cappelli era molto malcontento. Ed allora il buffone pensò, io ho il mio cappello solare, sino a lei io lo manterò, ed allora poi io morirò, poi morirò. Quando poi il mattino divenne bianco, lasciò il cappello davanti ai suoi passi, ed in silenzio si lo ripose sotto la nuvola dei capelli. Una canzone gli cantarono le sue labbra, sinché le stelle non crebbero nell'aria. Lei aprì la sua porta e la finestra, l'anima e il cuore lei fece entrare, fece entrare. Quello rosso venne alla sua destra, quella blu alla sua sinistra, facevano un rumore come di grilli, un chiacchierio dolce e saggio. I suoi capelli erano un fiore ancora chiuso, quieto d'amore era ai suoi piedi. Ai suoi piedi. Gianni Rodari è il valore della lettura e, dopo il condimento di qualche bella filastrocca dello stesso narratore, andiamo invece a Rodari sul campo, proprio in una classe scolastica, per sapere come si muoveva con molta autorità, ma nel solo autoritarismo, il nostro nella classica aula piena di monelli scatenati. Beh, prima cosa facciamo così, ognuno di voi scrive una parola su un foglietto che poi mi dà, o un nome, o un verbo, ma non nomi propri. Sono parole importanti, vediamo un po'. Tavolo, caspita, è importantissimo. È importante. Per fare i tavoli non occorrono le parole, e per fare le parole non occorrono tavoli. Possiamo fare solo quello. Per esempio, adesso mettiamo insieme delle altre parole, perché insomma dobbiamo prima creare un po' l'atmosfera, fare un buco nel soffitto. Per mettere insieme delle altre parole proviamo a ricordare, a raccontare delle cose che ricordiamo, ma la memoria bisogna darle lo stimolo giusto. Allora io dico, ricordiamo con il naso, ricordiamo con le orecchie, con un piede. Se volete comincio io, come vuoi che ricordi? Con un piede, con il naso, con una mano. con un dito. Adesso forse potremmo cominciare a vedere, a raccontare una storia, però non una di queste qui, di cose che ricordiamo. Queste sono un certo tipo di storie che si possono raccontare, si possono fare libri, poesie, so che se ne possono anche inventare tanti. Adesso vediamo un po' di parole in comune, vediamo, prendiamo due parole tutti e vediamo se inventiamo una storia, perché queste sono storie che consistono in questo. Si prende un ambiente conosciuto, Arezzo per esempio, tutti conoscono Arezzo, così, ed è un ambiente banale, quotidiano, che tutti conosciamo. Se gli buttiamo dentro un elemento estraneo, è come buttare una bomba, una bomba di fantasia. Buttiamo una bomba di fantasia ad Arezzo, Arezzo è costretto a cambiare, a diventare il teatro di un'avventura. No, devo andare a scuola. Per fare un fiore ci vuole un ramo, per fare un ramo ci vuole l'albero, però ci vuole il bosco, per fare il bosco ci vuole il monte, per fare il monte ci vuole la terra, per fare la terra ci vuole un fiore, per fare tutto ci vuole un fiore. E qui si chiude puntata legata a Gianni Rodari. Se ne ripudoreranno delle altre, anche perché nel 2020, lo sappiamo, cadrà il centenario della nascita del grande scrittore per ragazzi, e quindi il Comitato Ricerche Associazione Pionieri Radio Città Fujiko non poteva rimanere insensibile in questa riflessione a tutto campo, che dalla condizione di giovane cronista dell'Unità fino alle prime novelle sul Foglio di Gramsci o su Vie Nuove, arriva poi la produzione di un primo libro legato a Cipollino e della conduzione da condirettore del Pioniere, quindi la lotta di classe nell'orto. Un percorso che mostra già tutte le qualità di grande valore di Rodari, quelle che preludono poi l'autore più conosciuto come imprescindibile caposcuola della famosa grammatica della fantasia. E potremo toccare con mano quanto già affermato in passato in un'intervista da Marcello Argilli, che è un altro importante narratore per ragazzi, nonché grande amico e collaboratore di Rodari nel Pioniere. Secondo questa intervista, già nelle filastrocche apparse negli anni 50 sul Pioniere si scorgevano in nuce le poesie delle famose favole al telefono o della conclamata torta in cielo, un patrimonio quasi perduto nella memoria, quella del Pioniere, che troppo spesso ha rimosso l'esperienza del primo Rodari a vantaggio di quello successivo più conclamato, un Rodari, essendo giovane comunista arrabbiato, dichiarato evidentemente troppo divisivo dai direttori d'orchestra dell'informazione generale. All the blues ain't nothing but you feel so alone. Working hard every day, owe your soul to the Lord. When you ain't got a hope, all you ever left is your voice to cry. All the blues about a woman, she has a vein in her heart. All the blues about a woman, Big Mama hears her middle name. The first time I listened to her, tears run down like pouring rain. She said, sitting down by my window, I'm looking out at the rain. Girl, sitting down by my windows, I'm looking out at the rain. Something came along and grabbed a hold of me. It fell like a ball on a chain. Little bit of blows in my twenties rhythm went round and round in my head. Have I got the right to sing it? I asked myself. Cause there's something I'm missing. Oh, there's something I still have to learn. Yes, the sky above, listen to me. I got sick one ear long. Then my father took his life. Then the cancer took my breast. But I'm still alive to tell. The more you suffer, the more you want to know. But no one can tell you. Can tell you it is just so. Storie, i fumetti guardati dal calendario. A cura di Gianluca Omigliacchi, della fumettoteca Alessandro Callegati, Calle. Nuovo spazio per Fumetti a Sinistra, un mondo dentro al balloon, uno spazio legato alle celebrazioni dei fumetti, curato da Gianluca Migliacchi della fanzinoteca Fumettoteca Alessandro Callegati Cal, che è un centro forlivese, sito in via Curia il 51. I grandi fumetti. Tintin, Dierge. Il giovane Tintin, capolavoro di Georges Remy in arte Dierge, nel mese di gennaio ha compiuto ben 90 anni. La prima apparizione del giovane reporter dall'inconfondibile ciuffo rosso risale infatti al 10 gennaio 1929. Le sue storie prendono avvio sul numero 11 del settimanale per ragazzi, inserito come supplemento del giovedì di un quotidiano belga. Protagonista di lunghe storie avventurose, sempre sorrette da un'apprezzabile vena di ironia, Tintin è un giovane e coraggioso reporter giramondo che risolve abilmente enigmi polizieschi e vive grandi avventure. I suoi viaggi lo hanno visto presente in molti paesi esteri, dall'Unione Sovietica al Tibet, dal Congo agli Stati Uniti e addirittura sulla Luna, con ben 16 anni di anticipo sugli astronauti americani. Il tutto sempre in compagnia del fido cane Milù e i suoi bizzarri, ma divertenti, amici di tante storie d'azione, tinte di mistero. La morte del suo autore, avvenuta nel 1983, ha messo fine alle storie inedite del personaggio, ma non al suo successo globale saldamente consolidato. Salve, detective! Salve, Tintin! Sei qui alla ricerca di una storia, giusto? Esatto! Che cosa mi raccontate? Purtroppo, non molto. L'idolo era ancora qui alle 20.05. E alle 20.06 non c'è. Esattamente! Scusate, ma con tanti inestimabili oggetti d'arte, perché rubare un idolo di nessun valore? Perché le persone commettono dei crimini? Ditemelo voi. Beh, perché sono dei criminali. Non devi mai trascurare ciò che appare ovvio. Aiuto! Aiuto! L'idolo è stregato! Per questa settimana è tutto, quindi l'appuntamento alla prossima puntata, ricordando che per ascoltare questa trasmissione in podcast l'indirizzo online è www.radiocentralfugico.it oppure www.ilpioniere.org. Ciao a tutti. We get to know what it's all about. For we are the same, flesh and blood and blues belongs. Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va mai?